Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, la cronaca come sapete ci offre un sacco di temi che prima abbiamo brevemente riassunto nel giornale radio, di cui parleremo naturalmente anche con voi. 800 24 00 24, numero verde Micora al centralino, ma anche con i messaggi sms 349 238 6666, adesso anche con Facebook e Twitter, perché lì ci trovate, potete fare le vostre domande, insomma se volete contattarci un modo lo trovate. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. Io sono giorni che penso e dico anche, per la verità, come sapete, che il Milan mi pare imbattibile in Italia, nonostante sia stato fermato in questa prima bizzarra partita dalla Lazio sul 2-2, ma anche questo era in qualche modo preventivabile, pronosticabile, e torna a ripetere, secondo me la Lazio darà fastidio a moltissimi nella fase ascendente del campionato, e poi vediamo. Che il Barcellona sia imbattibile in Europa penso non ci siano, e nel mondo penso in questo momento non ci siano grossi dubbi. Che gli All Blacks, perché anche di rugby parleremo, difficilmente verranno battuti in casa, mi sembra un'altra verità all'alba del mondiale di rugby. Che Vettel, che oggi ha stampato la sua 10ª postagionale, sia assolutamente imbattibile in questa stagione, beh, anche lì grossi dubbi non ce ne sono. Però tra tutti questi imbattibili o presunti tali, ogni tanto per fortuna mi ricordo e vi ricordo che, come insegna la storia dello sport, di campioni o di squadre imbattibili, in fondo non ce ne sono. Rinfreschiamoci la memoria con questa scheda di Cristiano Bartelloni. Il 10 settembre di 39 anni fa il mondo era diviso dalla traiettoria di un pallone da basket. La guerra fredda si giocava sul parquet delle Olimpiadi di Monaco di Baviera. Gli Stati Uniti avevano conquistato i 7 precedenti ori olimpici con un percorso netto. Dall'altra parte del campo il nemico pubblico numero uno, l'Unione Sovietica. 3 secondi e un fiume di parole, un time out conteso e gli americani che festeggiano. Poi scende in campo il segretario generale della FIBA. Bisogna ripetere tutto. E stavolta il pallone di Edesco vola nonostante sia un macigno e raggiunge Bielov per i 2 punti che valgono la storia. Tanto alto è il volo quanto rovinosa sarà la caduta. Il tuffo del Blaugrana Evaristo che spezza il dominio del Real Madrid in Coppa dei Campioni e John McEnroe che batte Bjorn Borg dopo 41 partite che gli avevano fruttato 5 titoli sull'erba di Wimbledon. E la salita di Les Arcs, che chiude il lustro di reggenza di Michel Indurain al Tour de France. Fine del dominio, l'impossibile che si palesa per mano di un avversario inaspettato. Oppure succede come a Usain Bolt, sconfitto da se stesso per una falsa partenza, dopo 4 anni in cui chi arrivava secondo sembrava fare un altro sport. Ma è stato solo un momento, il re è già tornato. Caro Andrea Zorzi, così diamo un po' di speranza a tutti all'inizio della stagione calcistica. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati, perché niente è impossibile. Lo dico in italiano perché ormai lo slogan inglese è fin troppo conosciuto ed è legato anche a una marca di abbigliamento sportivo. Oggi, però, oggi non sei qui con me, ma ti sentiamo con piacere al telefono. Sono in ritiro. Sei in ritiro. La sai questa. Io chiamo di settimana per dirti, guarda, sono in ritiro perché domattina, molto presto, sono invitato a una tavola rotonda per parlare di temi che mi mette paura solo a pensarci. Meritocrazia, sacrificio, impegno. E infatti sto pensando di non usare queste parole e di provare a stare molto più sul concreto. Sì. Ma poi la cosa complicata è che domani sera, tu sai che in questi giorni a Rimini ci sono gli Sport Days. Sì, certo. C'è anche il torneo 3 contro 3, il mondiale 3 contro 3 di basket. Ce ne parlava ieri Dan Peterson. Ma bravissimo. Mi hanno invitato a fare una partita di calcio per festeggiare i 100 anni della maglia azzurra, in cui da una parte giocano gli atleti olimpici, bada, atleti olimpici, non olimpionici, se no non ci potrei essere, e dall'altra parte la nazionale attori. E quindi sono agitatissimo, un po' perché non gioco a calcio, non mi ricordo da quanto tempo, un po' perché se già un portiere sono finito, io stavo di fare il portiere, e quindi sono un po' più... Ah, giochi in porta? No, per la verità, quando ho giocato poche volte ho giocato fuori, però sai, un pingolone di 2 metri a passa che va in giro per il campo non è un bel spettacolo. Beh, c'è Ibrahimovic che appartiene alla categoria comunque di quelli alti. Senti Andrea, parlando di squadre imbattibili, perché di questo mi piacerebbe parlare oggi anche con gli ascoltatori, oltre che con tutti gli ospiti che avremo, su cui andremo naturalmente anche sui temi della cronaca, dal Milan al preview della Serie A eccetera, spesso il problema è che le squadre imbattibili nemmeno provi a batterle. Bravo, Bravo, bravissimo. È così, è così. Cioè, secondo me è una fase che appena una squadra vince diventa l'obiettivo di tutti. E quindi giocare contro i campioni del mondo è uno stimolo incredibile, e se i campioni del mondo non sono veramente molto forti, si ritrovano ad avere partite difficilissime. Però se rivinci, se tieni botta per un po' di tempo, perché ne hai la qualità, il talento, la forza, poi diventa una specie di corazza che ti difende, anche perché gli altri non hanno la forza di provarci. Adesso, fare il caso di Usain Bolt mi sembra non troppo corretto, perché questo va veramente al doppio degli altri. Sì. Però effettivamente sono delle barriere psicologiche che ogni tanto possono proteggere le squadre che hanno dimostrato molto. E quindi effettivamente, come dicevi te, qualche volta c'è proprio il carisma, il peso di chi vince molto, che impedisce agli altri di provarci, o meglio, di vedersi fino in fondo. Sì, questo è vero, questo è vero. Andando sul tuo terreno, che non è il campo da calcio, ad esempio, oggi inizia l'Europeo, tra poco, alle 18, c'è la prima partita dell'Italia, si gioca a Innsbruck contro il Belgio. In questo momento in Europa la Russia sembra imbattibile, lo è davvero? No, la Russia in realtà dà un'immagine doppia, ed è questa. Ormai da moltissimi anni hanno giocatori di una qualità fisica e anche tecnica che potrebbero non aver mai perso. In realtà hanno vinto molto poco. Infatti i campioni in carica sono i polacchi, adesso guidati da Anastasi. La squadra arrivata seconda all'ultimo europeo in Turchia è la Francia. E quindi non esiste a livello europeo un dominatore. Esiste una squadra come la Russia che potrebbe vincere facilmente, ma che non lo fa da anni. Esiste invece un dominatore, esisteva per la verità un dominatore, che era il Brasile a livello mondiale, che però da quando ha perso Riccardo, che era il palleggiatore che ha un po' cambiato la faccia nazionale, ha perso un po' questo smalto e, pur continuando a vincere molto, ogni tanto lascia tornei in giro per il mondo. Il primo è stato le Olimpiadi di Pechino nel 2008, quando vinsero gli Stati Uniti. Però non c'è un dominatore proprio, anzi, per la verità ti dico che poi, guardando un po' l'europeo di basket, anche a volte invidio al tuo sport, al vostro sport, questa grande alternanza, perché per davvero si vede che è uno sport molto diffuso, che ha creato buoni giocatori un po' in giro per il mondo, e quindi fare pronostici è ancora più complicato, e continuare a vincere è quasi impossibile. Certo. Andrea, invece uno dei temi della settimana, mi piacerebbe anche qui avere una tua sensazione. Ho visto l'inaugurazione di un impianto storico, il primo stadio di proprietà italiano, poi mi verrete a dire c'è lo stadio del Giglio di Reggio Emilia, però quella è un'altra esperienza, tra l'altro, che si sta chiudendo un po' così perché all'asta fallimentare, come dicevamo ieri. Questo primo stadio di proprietà, questa cerimonia bellissima di inaugurazione di questo stadio, che diventerà quasi un simbolo, no, io credo, per la Juventus, primo club italiano davvero moderno, davvero, davvero europeo. Ecco, guardando quelle immagini, che cosa hai pensato? Dunque, che mi auguro, al di là delle immagini molto belle, di questo segno evidente che qualcosa potrebbe cambiare, se diventasse un segnale per distinguere chiaramente quello che è lo sport professionistico, che deve essere gestito con regole diverse, se questo stadio diventasse un segnale anche per altre squadre, per fare un passaggio deciso ma convinto in un mondo di business, sarebbe una grande occasione. Temo che in Italia si corre il rischio di fare un po' il polpettone, cioè si vorrebbe lo stadio di proprietà perché si ritiene che così, avendo centri commerciali, il cinema, il museo, ci sia più giro di soldi, ma che non si sia pronti poi a prendersi il rischio imprenditoriale per fare in modo che quello stadio funzioni. Adesso non sto parlando dello stadio degli altri perché inizierà a muoversi tra poco. Quindi mi piacerebbe che questo fosse un quale anche in Italia si definiscono con chiarezza. Esiste e regge uno sport business vero e proprio? Le squadre di calcio possono questo? Se sì, va bene, ma poi vanno gestite per davvero con delle regole aziendali e imprenditoriali. Sì. Poi però, non dimentichiamo, sai quanto ci tengo a questo, lo sport è anche molto di più, e sono discipline un po' meno ricche, un po' meno popolari, certo. E poi sono anche attività che non sono neanche disciplinate. C'è anche chi in qualche modo si muove, fa attività, e questo è un universo gigantesco al quale va dedicato un po' di attenzione. Certo. Con regole diverse, questo stadio è l'inizio di distinzione, sia benvenuto. Andrea, grazie, ci sentiamo, spero anche ci vediamo sabato prossimo su questi schermi. Un abbraccio. Ci sentiamo in settimana. E il bocca al lupo per domani, per le parole che dovrai usare, complicate, e soprattutto per quella partita di calcio in cui, che mi piacerebbe molto vedere, purtroppo non riuscirò a farlo. Grazie. Meno male. A proposito, una cosa veloce: dimmi. Una settimana ho fatto un incontro, metto senti, mi disse un ospite, senti, potresti raccontarmi quella storia di quando in una finale scudetto i tuoi capelli hai fatto perdere lo scudetto della tua squadra? No, l'hai ascoltato su Radio 24. Vedi, non se la ricordava nessuno, l'abbiamo tirata in ballo e adesso non te la togli più, caro vedi, Andrea. Vedi cosa combini, caro Carlo. La potenza della radio. Grazie Andrea, un abbraccione. Stavi bene, ciao. Grazie. Ciao. Andrea Zorzi, dopo lo salutiamo naturalmente, dopo il traffico parliamo un po' di questo Milan-Lazio che abbiamo visto ieri sera. C'è chi mi chiede via sms, ma dove lo vedi il Milan imbattibile? Mi piacerebbe capire come il Milan le dia questa impressione di imbattibilità. Non ho forzato, non lo ritengo imbattibile, lo ritengo però certamente la squadra italiana più forte, la squadra più forte del nostro campionato in questo momento. Ah, tra le notizie di cronaca di oggi, insieme al rugby di cui parleremo dopo, alla Serie B e alla Formula 1, tutte cose che abbiamo già detto, tra le notizie di cronaca di oggi c'è anche la conclusione finalmente del Giro della Padania, ultima tappa vinta a Vicenza da Andrea Guardini, 22 anni. Il Giro è andato ad Ivan Basso e qui potremmo parlarne a lungo, ma se volete lo facciamo, è 800 24 00 24, che mi pare bizzarro come i corridori possano dire come hanno fatto in settimana, ma noi siamo qui soltanto per correre. Se vuoi correre vai alla Vuelta, vai a fare altri tipi di gara, altri tipi di corsa che non siano così così politicizzati. Però questo è un discorso che ci porterebbe lontano e forse in luoghi in cui non abbiamo voglia di andare oggi. Oggi vogliamo andare, vogliamo tornare invece a San Siro per questa bizzarra copertina di campionato di ieri sera, la stranezza di questo 2-2 scritto in 33 minuti. E in questa stranezza non è affatto strano, io credo, che il protagonista sia stato Cassano, che adesso pone, ma con piena legittimità, perché vista la partita di ieri sera non vedo alternative, pone la sua candidatura per giocare in coppia con Ibra a Barcellona, tenuto conto che l'avversario sarà qualcos'altro rispetto alla Lazio pur buona di ieri sera. Io vorrei guardarla questa copertina dalla parte dei tifosi del Milan e non so se si è divertito il nostro amico Giorgio Mastrota. Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao, come stai? Benissimo, ti sei divertito? Senti, allora, io nelle migliori tradizioni della commedia italiana ero a cena con la mia fidanzata, con i miei amici che mi messaggiavano ogni gol, quindi quasi di nascosto osservavo il telefonino, seppur sono molto innamorata, quindi diciamo, sì. È qui al mio fianco, quindi mi sta guardando ridendo. Salutacela, non so se sia milanista anche lei, ma magari no. Insomma, per acquisizione, diciamo. Però quindi l'ho seguita e poi ho rivisto oggi le azioni, ho letto punti di giornale. Insomma, da quello che mi hanno detto, nel primo tempo, nonostante la sconfitta, i miei amici dicevano grande Milan, comunque grande Milan, giochiamo bene dopo i primi minuti di sbando. Col Barcellona secondo me sarà tutta un'altra storia. Sì. Insomma, anche la libertà che ha avuto Cassano, da quello che so, in questa partita, di giocarsela, sì. Lì mi sa che sarà dura. Sono sembra di rivederti l'azione del palo, insomma, con Ibrahimovic che in surplus scodella questa palla a Cassano, che arresta a centrare, ci penso un po', piglia il palo, insomma, forse in altre circostanze non glielo fanno fare. Ma io non sono convinto che nel Milan, gruppo Milan, club Milan, strutturato com'è, ci sia spazio per quella narcoide di Cassano. Tu cosa dici? Credo anch'io, anche perché lui è proprio, è tipico, per quanto giochi lui, per quanto l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che ci faccia una partita così dove ha il massimo della libertà e dove possa anche decidere magari la partita, giocarsela bene, farci anche divertire, ha due o tre prestazioni insomma del tutto anonime, e quindi io non so se lo metteranno a Barcellona. Sarebbe l'occasione per lui di far vedere che non è più così, io ho un po' di dubbi e penso che ce l'abbiano anche molti tifosi milanisti. Un tifoso del Milan può innamorarsi di Cassano? No, così. Io credo di no, a me piace lui, mi diverte quando lo vedo giocare, però anche poi nelle dichiarazioni, noi vogliamo dei giocatori innamorati della squadra, che lui insomma lo è a seconda dei suoi umori, quindi non ti rende sempre felici, non soltanto per come gioca, dai. Certo, mamma, come mi fai parlare serio, mamma, perché era di 24, insomma, non posso dire le mie bestialità, però... No, ma puoi dire tutto quello che vuoi, vai a Barcellona, credo che sia così. Da milanista vai a Barcellona per limitare i danni, insomma, non mi sembra... Il sentimento generale penso sia questo, anche se insomma diciamo che la speranza c'è sempre, però io venendo a giocare il Barcellona onestamente non ce n'è. Cioè, dovrebbe andarci di, posso dire, di culo, sì. Sì, così. Puoi dire di culo. È così. Sì. Dovremmo essere molto fortunati, anche se, cioè, i giocatori ci sono, ce li abbiamo tutti, ma Barcellona è durissima. A Barcellona è durissima. Comunque, caro Giorgio, protagonista dell'estate non è stato Mister X, che non penso fosse Aquilani Nocerino. Però da attore e da persona ironica quale sei, non potrai non convenire con me che il protagonista dell'estate è stato De Laurentiis. Sì. Sì, beh, ne ha combinate anche lui. Però anche lui è un personaggio, sarà perché è napoletano, sarà perché a volte è simpatico, a volte esagera. Insomma, queste sparate ormai siamo abituati, no? Sì. I cinepanettoni li sta portando avanti lui, il cinepanettone dell'estate calcistico credo che sia stato il suo. Adesso ci aspettiamo qualcosa di nuovo, anche se magari di base può avere delle ragioni, no? Sì. Però se ne esce con delle cose un po' alla De Sica, ecco. A me fa impazzire. Giorgio, ti ringrazio. Barcellona-Milan però lo guardi, non vai a cena fuori? No, martedì non sono a cena fuori, me la guardo la partita, quindi ormai l'abbiamo adesso detto, sta guardandola. Non ho dubbi, non lo sapeva, adesso lo sa, insomma, lo sa pubblicamente davanti a un sacco di ascoltatori, ci sono registrazioni. Un abbraccio Giorgio, grazie. Ciao ragazzi, forza Milan. Ciao, grazie Giorgio Mastrota. Ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, anzi prima degli ascoltatori, Allegri dopo la partita di ieri sera. Credo che dopo la prima mezz'ora della squadra, dove sicuramente abbiamo fatto fatica perché la Lazio giocava bene, correva bene, noi non riuscivamo bene ad occupare tutte le zone del campo e soprattutto abbiamo preso un po' troppo contropiedi, perché concludevamo poco l'azione e eravamo poco vicini a loro e ci hanno messo in difficoltà, infatti siamo andati su a zero. Poi dopo la squadra per 65-70 minuti ha fatto quello che doveva fare, soprattutto nel secondo tempo credo che abbiamo sbagliato diverse occasioni che sono di queste, magari potevamo vincere la partita. Era la prima partita, sapevamo che ci poteva essere l'incognita, soprattutto all'inizio della partita, di trovare un po' le misure, un po' di ritmo. L'abbiamo pagata anche a caro prezzo, però i ragazzi sono stati bravi a riprenderla e io sono contento alla fine di quello che hanno fatto. Questo era Allegri. Ma avete già parlato di Formula 1? Scrive domanda Dario da Vicenza. Già letta la griglia di partenza, certamente almeno un paio di volte, con Vettel al 10° posto stagionale, Alonso 4° con le due McLaren davanti. Domani alle 14 si corre, domani dalle 16.30, così ne approfitto anche per ricordare la scheda dei nostri appuntamenti, insomma dalle 16.30 alle 19 saremo insieme e la prima mezz'ora seguiremo la coda, l'ultima parte delle partite del pomeriggio della Serie A e ovviamente parleremo molto di Gran Premio con Enrico Pagliarini, il nostro inviato, con Mario Poltronieri, con tutte le voci, con tutto quello che volete. Vi invito qui a intervenire domani perché si comincia la grande la stagione finalmente questo campionato. Ragionamento assurdo sul Giro di Padania, scrive un altro ascoltatore. Allora le bands inglesi, notoriamente collettiviste, a suonare ai vari festival in unità? Pecunia no, Olent. Certamente pecunia no, Olent, però bisogna saperne non sorprendersi del fatto che se vai lautamente pagato ad un Giro della Padania che ha questi colori ben definiti, come la maglia verde del leader della classifica indossata di Van Basso, non ti puoi sorprendere se ci sono in maniera non corretta naturalmente, se ti trovi di fronte, si trovi a pedalare in mezzo alle difficoltà. Questo è il mio pensiero, cosa che hanno fatto quelli del no, ma noi non facciamo politica, facciamo ciclismo. Benissimo, però al Giro di Padania non mi venite a raccontare che è come la Coppa Bernocchi, insomma. Roberto, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Come ho già chiesto, io chiedevo a lei, faccio fare due chiacchiere, parlavamo di squadre imbattibili. Sì. Sarà l'Ajax del 70, sì, degli anni 70, il Milan di Sacchi e l'attuale Barcellona. Io ho detto così, secondo me, in base ai tempi, mettevo l'Ajax in fila, Ajax, Milan e poi Barcellona, ma non che il Barcellona non si può neanche dire che sia inferiore, ci mancherebbe altro, ma vedevo con quell'Ajax là proprio non si poteva toccare palla. Io ho visto la finale con l'Inter, il 2-0 del 72, sì, e l'1-0 con la Juve del 73, ma sì, ma proprio Cruyff faceva quello che voleva, cioè una cosa Anzi, io sono d'accordo, una cosa di sa che tra il Brasile del 70 si può paradossalmente fare una partita, cioè, e quella è che io dico che era il primo calcio veloce. Sì, Roberto ha fatto la rivoluzione l'Ajax. Quell'Ajax ha fatto la rivoluzione, ma è stato rivoluzionario anche rivoluzionario anche il Milan di Sacchi. Lei ha ragione. Quasi quasi condivido la sua graduatoria, anche se di quell'Ajax, per ragioni anagrafiche, non posso parlare con piena cognizione di causa perché non ricordo bene direttamente, mentre il Milan di Sacchi benissimo, ed è stata una squadra rivoluzionaria proprio come quell'Ajax, perché per la prima volta, arrivo Sacchi, può piacere o non piacere, però ha portato una squadra italiana in Europa con una faccia totalmente diversa, quindi è stata una rivoluzione del nostro calcio. Flavio da Rimini, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Io volevo dire una cosa su Cassano. Prego. E cioè che fossi in Allegri, se Pato star bene, io giocherei con Pato a Barcellona per una questione di tipo tattico, cioè non faremo a Barcellona, perché non ce lo permetteranno, parlo da tifoso milanista, la stessa partita che abbiamo fatto con la Lazio. Credo che dovremmo stare sulla nostra tre quarti e poi provare con un passaggio filtrante a innescare Ibrahimovic e Pato, ripeto, se sta bene, perché ha delle caratteristiche tecniche che gli permettono Flavio, però le domande sono due. Primo, Pato starà bene perché è arrivato molto tardi, come sappiamo, eccetera. Ieri sera l'abbiamo visto poco, no? Sì, premesso, certo. E io dico, se Cassano, il Cassano di questo periodo, il Cassano che abbiamo visto ieri sera, non gioca ora con Pato in ritardo di condizione, con Robinho che deve rientrare, eccetera. Se non gioca ora, quando gioca? No, ma sono d'accordo, infatti ho premesso se Pato sta bene, sì. Altrimenti giochi con chi hai e quello che hai è questo, insomma. Sì, no, ma l'importante è che il Milan vada a Barcellona senza snaturarsi, cioè senza flettersi alle straordinarie caratteristiche degli avversari. Devono andare lì a giocare la loro partita. È chiaro che sarà una partita in cui il Milan dovrà andare a limitare i danni, questa è la mia... Non è detto che, appunto, partendo dalla nostra tre quarti e infilandoci negli spazi che eventualmente rimangono... È anche vero che la fase difensiva, diciamo così, del Milan, vista ieri sera, in prospettiva a Barcellona mette una discreta FIFA, perché Nesta l'abbiamo visto, ma comunque in blocco la fase difensiva del Milan ieri sera è stata a tratti un po' imbarazzante, quindi... Se traghettiamo quella squadra che abbiamo visto nel debutto in campionato al Camp Nou di Barcellona, qualche brivido viene. Grazie. Allora, tanto per chiarezza e per rispondere in una parola ai molti che scrivono messaggi anche non civilissimi, non giustificherò mai in nessun caso, in nessun settore, da nessun punto di vista, ogni azione violenta, nemmeno un solo gesto incivile e violento, almeno uno schiaffo. Però quello che ho voluto dire sul Giro di Padania, che confermo, è che non i corridori che l'hanno corso non potevano aspettarsi di correre una gara neutra, cioè questa era una manifestazione sportiva altamente politicizzata, e quindi non ci si può sorprendere di fronte a certi segnali e manifestazioni di inciviltà. Quello che dico è questo: non mi possono dire che è una normale corsa ciclistica, perché non lo è. Passiamo ad altro e torniamo agli ascoltatori. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao. Ah, guarda, io non sono laziale, sono di più. ma guarda, io l'unica cosa che mi ha dato fastidio di tutta questa partita, che d'altra parte è stata una partita bellissima, come non se ne vedevano da tempo in Italia. Anche perché mi sembravano un po' indietro di condizione, gli spazi erano diciamo così ampi. Nel primo tempo è stato stupendo. Sì. E la cosa che mi ha dato enormemente fastidio è averla vista su Sky, e la partigianeria del conduttore. Perché si è parlato del Milan che poteva vincere, per carità, poteva vincere benissimo, ma si è parlato poco della Lazio, non si è parlato che la Lazio sul 2-0 ha avuto un altro due miti di occasioni con Hernanes e con Close per andare sul 4-0. Anche con Sissé alla fine, no? Prego? Con Sissé, su cui ha salvato Nesta. Con Sissé, scusami. E, no, nel secondo tempo, no, io parlo del primo tempo, sì. Con Klose e con guarda Marco, nel primo tempo se le sono, le hanno date e prese tutte e due, no? Con spazi molto, molto larghi, con una fase difensiva rivedibile, ma a mio parere la Lazio aveva in mano la partita. Io lascerei stare, ma una partita che se finiva anche 4-4 ci guadagnava solo uno spettacolo e nessuno aveva rubato nulla. Sì. Sono contento della mia squadra, essendo la prima giornata e vedendola almeno per un tempo in forma, con l'unico rammarico che mancava Radu. Sì. Perché se c'era Radu, sinceramente non penso che Cassano faceva quel gol. Comunque. Ma lascerei stare la storia della telecronaca, perché in fondo chi se ne importa. Cioè, io credo che quello che si guarda è la partita della propria squadra. Io sinceramente non riesco a prendermela, non riesco adesso, non sono mai riuscito a prendermela. No, per carità, sono contento per come viene per la ritrovata forma di Nesta, che l'ho visto stato sterico, a parte qualche pallone che con Sissé è difficile. Chi? Con Nesta, stare dietro a Sissé non è facile. L'ho visto. Non ha fatto la sua partita migliore, Nesta? Sì. Ha salvato un gol, è come se ne avesse fatto uno. Sicuro. Sono contento per Alessandro, e fa vedere tutta la sua professionalità, perché Alessandro, ti posso assicurare che lo conosco molto bene, alla catenina con l'aquilotto della Lazio sotto la maglietta, quindi dimostra tutta la sua professionalità. E comunque io vi ringrazio per avermi richiamato Guardi, forza Mila per martedì. Stia con noi, perché adesso abbiamo in linea un personaggio cui lei e tutti i laziali vogliono ancora molto bene. Io non ho mai nascosto la mia profonda stima pubblicamente per Delio Rossi, non lo faccio nemmeno oggi che è collegato con noi. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio. Senta, curioso che con quello che ha fatto sia qui a parlare con noi e non in conferenza stampa. Non mi dica che è il calcio. Che questo è il calcio. No, non è questo il calcio. Il problema è che nel momento stesso che tu fai bene, perché basta considerare che gli ultimi 5 anni ho portato le squadre che ho allenato in Europa, il sesto anno ho vinto la Coppa Italia, quest'anno sono fermo per scelta perché non ho ancora trovato una squadra che in un certo qual senso dove possa andare a estrinsecare le mie capacità. Quindi sono fermo più che altro per scelta, non perché non ho avuto le possibilità. Ma questo è strano comunque, se me lo consente. No, comunque non sta mai a dirlo. Lo dico io, non c'è problema. Io posso anche dire, non lo nascondo, di essere stato piuttosto contento da suo ammiratore pubblico quando ha detto di no a Zamparini quest'estate. No, non è che ho detto di no, secondo me fa piacere, perché se ti richiamo in un posto dove pensi hai fatto bene, magari hai un'interpretazione diversa sul tuo ruolo di fare allenatore col presidente e lui ti richiama, significa che in un certo qual senso, al di là di certe situazioni, ti apprezza come persona e come tecnico, però secondo me non c'erano i presupposti, soprattutto in tempi in tempi così brevi, perché manca una questione, si è fatta una scelta di rompere col passato, anche sono andati via diversi giocatori anche da Palermo, anche se non mi spaventava di cominciare con un altro gruppo, però penso che sia giusto magari dare la possibilità ad altri di allenare il Palermo. Poi ha detto in quei giorni anche la Roma mi piace, mi sembra interessante, è venuto fuori un polverone. No, io non ho detto questo, ma hanno voluto capire questo. Ho detto da conoscitore di calcio, soprattutto da amante del calcio, tutti gli altri più o meno li conosco come allenatore, l'unico che non conosco è il suo metodologia di lavoro, è Luis Enrique, che lo seguirò con curiosità, mi intrigherà il suo modo di lavorare, e invece subito hanno detto mi intrigava allenare la Roma, cioè di qui ce ne passa, per di più nella mia vita non ho mai proposto a nessuna società, anche perché penso che la strategia la faccia la società, l'allenatore deve mettere in pratica la strategia della società, poi posso scegliere, questo sì. Bravissimo, l'allenatore deve mettere in pratica la strategia della società, lo trovo un discorso di estrema intelligenza, e questo volevo dire, Conte ha avuto un approccio molto rigido alla sua prima grande panchina, vuole un certo tipo di calcio, ha preteso certi giocatori della società che glieli ha dati, direi che è un approccio molto diverso ad esempio da quello di Allegri l'anno scorso al Milan. Ma penso che questa deriva anche in un certo qual senso dalla forza del presente e dalla forza del passato, nel senso che ci sono tipi di allenatori, non so, faccio un esempio, Capello, oppure uno che piglia Zeman sa che deve fare la squadra adatta a Zeman, e altri allenatori che in un certo qual senso non hanno questa forza del presente e del passato, che quindi devono raggiungere l'obiettivo magari loro adattandosi più ai giocatori a disposizione, fermo restando che tutti abbiamo un nostro modo di, dove magari di vedere il calcio, ma anche forse il nostro sistema di gioco dove ci crediamo di più, però penso che nel momento stesso che andiamo a Coverciano ci danno il pezzantino da allenatori, non da modulo di gioco. Bravissimo. Lei crede che il Milan sia battibile in Italia? Sembra anche a lei la squadra più forte che c'è in questo campionato, che ci sia questo sorpasso anche sulla carta nei confronti dell'Inter, che è stata la più forte per 5 anni? Secondo me sì, anche perché questo deriva dal fatto di avere un minimo di progetto, nel senso che su una rosa che l'anno scorso ha vinto il campionato hanno tenuto lo stesso allenatore, quindi gli hanno dato un altro anno per migliorare il suo sistema di gioco, per di più hanno preso dei giocatori funzionali alle magari alle carenze che aveva notato l'anno scorso l'allenatore, un po' come ha fatto anche la Lazio. La Juve invece ha ricominciato da capo. Chiaramente quando inizi sai da dove parti ma non sai dove arrivi. Io penso che sia sbagliato ogni anno ricominciare da capo sempre. Assolutamente, i risultati lo dicono. Questo stadio nuovo della Juventus, mister, è la prima pietra di un futuro nuovo per il nostro calcio, qualcosa che può funzionare. La locomotiva che trainerà altri in questa direzione, è questo il futuro secondo lei? Secondo me il futuro non può passare sicuramente da una cultura sportiva, ma questo deriva dalla scuola. Penso che siamo l'unico paese in Europa che non è ancora obbligatorio nella scuola elementare l'educazione fisica. Questa la dice lunga su come interpretiamo noi il nostro modo di essere sportivi. E poi non può passare dal fatto di avere degli stadi di proprietà, anche perché è una questione patrimoniale, ma anche fidelizzazione del club. Senso d'appartenenza, soprattutto un aumento di ricavi, però secondo me l'aumento di ricavi non può passare solo esclusivamente dalle televisioni, certo, perché nel momento stesso che le televisioni poi la fanno da padrone, ti fanno giocare a mezzogiorno, ti fanno giocare alle 10 di sera d'inverno, per di più, per migliorare, cioè per riuscire a rientrare dell'investimento che hanno fatto, devono aumentare gli impegni, ma se aumenti gli impegni diminuisce il valore tecnico, cioè perché noi vediamo giocatori che giocano a partita della vita ogni 3 giorni, ma non sono automi. Certo. Secondo me dobbiamo rivedere anche il nostro modo di fare professionismo. Il professionismo deve essere dei migliori, non di tutti, se no succedono delle situazioni che sicuramente sono casi limiti, ma tipo le aberrazioni in C, perché uno se pila 2000 euro al mese pensa di essere professionista, perché poi in Serie C hanno tutti i pregi e i difetti dei giocatori di Serie A. Assolutamente. Con i primi 2000 euro si comprano la macchina, si compra la casa. Mister, è sempre un piacere parlare con lei, sa. Io posso chiedere un'ultima cosa che non c'entra nulla con il calcio, nemmeno con lo sport, però mi viene così. Domani è l'11 settembre, 10 anni dopo. Sì. Mi lascia un suo ricordo personale di quel giorno? Se lo ricorda quel giorno? Io me lo ricordo quel giorno perché ero a mia casa a Foggia e stavo mettendo, la prima volta che avevo la TV satellitare, stavo mettendo il satellite e c'era l'antennista fuori e proprio mi sembra mattinata e ho visto questa cosa e onestamente pensavo che fosse un film, fosse qualcosa di non reale. Onestamente è stato così vivo il ricordo, così anche in un certo qual senso che uno non ci poteva credere, che pensavo che fosse un film, che cioè non fosse realtà, e purtroppo è stata realtà, e penso che non dobbiamo dimenticare, perché solo chi ha la memoria può andare avanti. Grazie mister, grazie come a sempre. Voi. Grazie, un abbraccio. Grazie Delio Rossi. Torniamo per farvi sentire qualche voce della vigilia. Oggi, primo sabato stagionale di conferenze stampa, c'è Antonio Conte. Prima parlavamo di Juventus, Antonio Conte che aspetta il Parma nella nuova casa della Juventus domani alle 12:30 e sarà probabilmente la partita più interessante della giornata. Conte. Io quello che ritengo è che questa squadra, al di là della posizione in classifica, debba centrare un campionato sicuramente di costruzione, di fondamenta importanti, perché come abbiamo detto stiamo costruendo, abbiamo bisogno di tornare competitivi quanto prima possibile e quindi c'è bisogno di lavorare tanto. La posizione finale in classifica sarà sicuramente la conseguenza di quello che faremo vedere sul campo. Da parte nostra sicuramente ci stanno grandi motivazioni, grande voglia, grande spirito. Adesso a parole dobbiamo tradurlo con i fatti già da domani, sapendo che domani arriva un cliente molto difficile che nelle ultime tre partite di campionato ha sempre battuto la Juventus. Quindi rizziamo bene le antenne perché devono essere belle ritte. Antenne belle ritte, domani si tratta di scegliere, per quanto riguarda la Juventus, dicono, un partner per Del Piero. Probabile Vucinic, mentre i nuovi Vidal ed Elia partiranno dalla panchina. Le formazioni che vedevo prima, nell'anteprima, insomma, nella giornata dell'ultima giornata di ritiro, mi sembravano abbastanza equilibrate con Giaccherini e Pepe esterni di centrocampo, una squadra più vicina al 4-4-2 che non al 4-2-4 di cui si è andato favoleggiando in estate. Oh, come sapete ci sono due giocatori in questo momento estremamente chiacchierati, inutile che vi dica che sono Totti e Wesley Sneijder. Francesco Totti domani partirà dal campo nel debutto della Roma con il Cagliari. E oggi Luis Enrique con grande enfasi ha parlato del capitano dicendo, provando a parlare anche in italiano. Francesco non può essere un giocatore normale perché porta 207 gol, è un giocatore unico, è unico, speciale, è il suo atteggiamento, tutto, io lo so. E adesso c'è anche lo Special Totti, non solo lo Special One in Spagna. Vi consiglio di vedere la faccia di Luis Enrique nella sua accorata difesa del capitano, occhi vagamente spiritati, vene del collo gonfie. È stato divertente, quantomeno. Gasperini invece con molta più flemma ha parlato invece del suo caso Sneijder. Sentiamo cosa ha detto a proposito del giocatore che l'anno scorso, un anno fa, era forse il più forte del mondo, comunque tra i primi 3-4 più forti del mondo, a detta di tutti, e oggi non è nemmeno sicuro di un posto in questa Inter. Sentiamo. Il fatto sia rimasto Sneijder è uno dei giocatori più importanti in assoluto a livello mondiale. Io mi auguro che per lui sia una stagione eccezionale, sicuramente migliore dell'anno scorso e in assoluto che possa dare un contributo importante. Noi quest'anno, magari a differenza di altri anni, è andato via Eto'o, però abbiamo, credo, una rosa di attaccanti importanti. Io anche lo considero anch'io nel ruolo degli attaccanti, fermo restando che lui è un giocatore che per me può giocare anche in caso di necessità o in caso di bisogno, ovunque, perché proprio per le qualità che ha lui. Beh, vediamo se poi gioca. Credo giocherà domani a Palermo, ma vedremo quale collocazione troverà Sneijder in quest'Inter. A me sembra assurdo che un giocatore come Sneijder, per un giocatore come Sneijder, sia una questione di posizione. Sneijder all'inizio della carriera giocava addirittura esterno difensivo, poi è diventato esterno di centrocampo, può giocare trequartista, può giocare in qualunque tipo di ruolo, forse salvo il portiere e il centravanti, e sul centravanti discutiamone. Mi sembra un giocatore clamoroso e mi sembra curioso che venga messo in discussione per quanto riguarda la sua posizione in campo. Andrea da Pordenone, buongiorno. Sì, buonasera dottore. Se posso cambiare argomento, vorrei tornare sul discorso del Giro di Padania. Ho sentito le sue affermazioni in merito e credo che il vizio di base stia in un problema della federazione ciclistica, non tanto dei ciclisti, sì, sì. Perché nel momento in cui la federazione autorizza come l'inserimento nel calendario, certo. Sa che i professionisti hanno il calendario organizzati dalle squadre. Ma infatti mi riferivo anche a non solo ai corridori ma anche alle parole che ho sentito da Di Rocco, presidente della Federciclismo. Noi siamo qui per correre, non per fare della politica. Mi sembra difficile federale, sì. Perché la manifestazione è politica e io non la condivido in termini politici, né può esserci una manifestazione sportiva di carattere politico, a meno che non torniamo agli anni 80 in cui c'erano le federazioni legate ai però partiti. Però lei è d'accordo con me sul fatto che fosse qualcosa di politicizzato, no? No, ma è evidente nel momento in cui c'è un esponente partitico che in qualche maniera è presente in ogni premiazione. Sì. Giustifico però i professionisti che non hanno quella clausola di coscienza che è consentita per esempio ai giornalisti, per cui se la proprietà del giornale cambia in termini politici, è consentito loro di trasferirsi. Questi sono professionisti che devono in qualche maniera ottemperare il programma della squadra che gli impone di fare, visto che la manifestazione in Italia o comunque a livello europeo è quella, perché la federazione l'ha concordata, non è a loro consentito andare a gareggiare in un'altra, perché proprio la clausola di coscienza, tra virgolette, non è consentita. Per cui quello che sputa addosso a un professionista che anche per obblighi di contratto, quello che sputa addosso a un professionista va arrestato, quello che sputa addosso a un'altra persona va fermato. Su questo, su questo discussioni non ce ne sono. Però è altrettanto evidente che è difficile dire siamo qui per correre, è evidente che sei lì per correre, però partecipi magari perché costretto da un contratto, dagli impegni della tua squadra, che avrà ricevuto molti soldi per partecipare a questo tipo di manifestazione, questo è indubbio, però non, è difficile sorprendersi se ad una manifestazione politicizzata possono succedere cose di questo tipo. Andrea, è stato un piacere parlare con lei, torna a trovarci quando vuole, ora devo passare oltre perché sono di corsa, ho 4 minuti per capire da Giacomo Bagnasco, tornando all'argomento a monte di apertura. Squadre imbattibili, mondiali di rugby, non so se in questi mondiali organizzati in casa gli All Blacks siano battibili. Allora Carlo, intanto per prima cosa ti dico che nell'ambito delle singole coppe del mondo che si sono disputate finora, cioè 6, la squadra che ha vinto la Coppa del Mondo ha sempre vinto tutte le partite, quindi in questo caso in un periodo limitato erano effettivamente squadre imbattibili. Sì. Per quanto riguarda invece la Nuova Zelanda, che ha vinto la sua unica Coppa del Mondo in casa a Auckland, bisogna dire che all'Eden Park di Auckland la Nuova Zelanda vince ininterrottamente dal 1994. Nel 1994 pareggiò una partita 18-18 con il Sudafrica e prima perse una partita, sempre nello stesso anno, annus horribilis, 23-20 dalla Francia, che segnò una meta con Sadurni, che da parte di molti è considerata la più bella meta mai segnata nella storia del rugby. Sì. Diciamo che la Nuova Zelanda, a parte incontri che sicuramente vincerà con formazioni di secondo livello come il Giappone, giocherà tutti gli scontri importanti all'Eden Park di Auckland e quindi Se fai 2 più 2 magari se qualcuno 4. Riuscirà a batterla si sarà doppiamente guadagnato la Coppa del Mondo. Sì, sicuro. Risultati oggi: Fiji batte Namibia 49-21, Francia batte Giappone 47-21, Inghilterra batte Argentina 13-9 in quella che era la partita più interessante. Ma per chiudere, Giacomo, domani mattina 5:30 c'è l'Italia, quella sì che è per noi, secondo me, una sfida impossibile, sì che è imbattibile per noi l'Australia. Sì, guarda, è una sfida impossibile, penso che ne siano tutti coscienti, succede così da 3 edizioni, noi incontriamo subito la squadra più forte, 2 volte abbiamo incontrato subito la Nuova Zelanda, poi le 2 più deboli e poi ci giochiamo tutto all'ultimo turno. Sicuramente questa Australia è una squadra fuori dalla portata dell'Italia. Bisogna anche dire che nelle partite che sono state disputate finora, 5 in tutto, a parte la prima, quella fra Nuova Zelanda e Tonga, nelle altre anche le squadre che hanno perso come da pronostico hanno comunque saputo battersi bene. C'è stato il Giappone, ad esempio, ha perso 47-21, però in realtà a 20 minuti dalla fine il risultato era 25-21 e la Francia sembrava in difficoltà. Diciamo che riuscire per una parte dell'incontro a mettere in difficoltà in qualche modo l'Australia sarebbe già un risultato. Sì. Battere l'Australia è un sogno e tale rimarrà. È un sogno, forse fantascienza in questo momento. Grazie a Giacomo Bagnasco, che ritroveremo naturalmente domani mattina presto a raccontarci questa partita e poi domani pomeriggio torneremo a parlarne. Io devo chiudere, vi do appuntamento però a domani, orario invernale, inizia il campionato, inizieremo prima domani e per tutte le domeniche che verranno a Tempo di Sport, come l'anno passato, dalle 16:30 alle 19:00 insieme per parlare di calcio, ma non solo. Giorgio De Luca in redazione, Pietro Accorti in regia, ci sentiamo domani.